vabbè, venduto comunque. E lo attacco facendo questi segnali qui, ah, si dice, ma io avevo il volume dietro, SRF, c'avevo il volume, niente volume, Marco, nulla. E dammo un colpettino, niente da fare. Mettevo le cuffie, cazzo, mi faceva sordo, no, qua c'è qualcosa che non va, qua c'è qualcosa che non va, parlo con Massimiliano, Archimede, tanto Massimiliano, così, così, così, tra, che ha lavato la radio con la scheda audio bruciata, perché quello c'è in digitale, c'è la scheda audio. Mette mi contatto, altri 200 euro per metterci la scheda audio, capito? Altri 200 euro. Cacchio. Vabbè, ma non sarà il solito, quello di Lucca. Di Lucca? No, questo è un 850 da Kenwood, quello grande, quello digitale grande, che adesso è perfetto, ho messo la scheda nuova, è perfetto. Ma dico, chi ti ha dato Magic Phone? Montagnani? Esatto, sì, quello di Lucca, non ho capito, Lucca, di Lucca è di Sassi, sì, Montagnani, capito? Un farabutto, era proprio telefonato, ci conosciamo in radio, l'ho conosciuto anche in fiera, la fiera di Genova, e poi l'ho rivisto alla fiera di Novegro, capito? E poi mi ha telefonato, guarda che la radio che mi ha mandato, così, ah guarda, io l'ho revisionata, ce l'avevo qua sul banco, perfetta, ma stai scherzando, ma ti pare che è qui la... ascolta, io non l'ho presa a morsi, la radio è arrivata perfetta, non ha un graffio, non ti sto dicendo niente. Quando l'accendi l'audio non c'è, l'audio c'è solo in cuffia, quindi solo col deviatore diretto, non c'è audio, cazzo mi ha preso per, capito? Ah, gli dico, ascolta, fai una cosa, quanto costa la scheda? Costa 100, mi pare 40 euro più IVA, una cosa del genere, più il trasporto. Ho detto, va bene, ok, me la mandi il contrassegno. E con me hai chiuso? No, ma guarda, no, mandami per favore, chiuso, vai a cagare, e non gli ho comprato più niente, capito? Solo che se era nuovo c'è la garanzia, se era usato c'era anche la garanzia di un anno, stava lui sostituirtela, è stato scorretto. Non ha sostituito niente, guarda, ma questa radio l'ha messa a posto Massimiliano l'ha messa a posto, l'ha cambiata lui, capito? Lui non ha fatto assolutamente niente, l'unica cosa che non ha fatto, non ha fatto pagare il trasporto, me l'ha mandato in Porto Franco, che mandano nel porto assegnato, capito? Però la scheda me l'ha fatta pagare 140 euro più IVA. Vabbè, io ero un po' così per questo baracchino che gli avevo spedito su. Praticamente sono passati 6 mesi, al 5 di questo mese sono passati 6 mesi che il baracchino è in assistenza. La stessa cosa l'ha fatta un'altra persona, si è tenuto mesi, ha detto balle, perché lui ha detto che l'aveva spedita alla Midland, alla CTE, invece non aveva spedito niente. Il baracchino con l'altra persona, peraltro era lo stesso baracchino, gliel'ha restituito dietro minacce legali, capito? Se no non ne vedeva più baracchino, e così dovrò fare io. Sì, ma è stato scorrettissimo nei confronti, anche nei confronti di un altro carissimo amico che è l'animatore, che è quello che ti ho citato poco fa, che mi ha insegnato a fare qualche manovretta nei cable, quello lì, capito? Gli ha dato una radio, gliel'ha mandata in garanzia, praticamente aveva un problema, stiamo parlando di una radio grossa, una radio molto molto grossa, abbastanza costosa, una radio più di 2500 euro, era nata con un difetto, quando scaldava andava in protezione, e c'era una scheda anche lì, capito, era un Pogaredo truffaldino, che aveva detto, io te la sto mandando e me la sostituisci, altrimenti sto prendendo l'aereo, sto prendendo lì e ti scuro a cabo, capito, tutto lì, avanti già. Ce ne sono molto poco serie di ditte, quando lo compri fuori è sempre così, perché poi lo spedisci, se lo compri qua magari puoi andare a prospettare, un accordatore, me l'hanno mandato un altro, cazzo, che costava molto meno, ma a Finlandi, me l'hanno mandato il 500 perché c'è il 1000. Gianni. Sì, ja. Allora, la tecnocomunicazione, ho visto che sta perdendo quota, ti spiego perché. Sono andato su eBay, perché la tecnocomunicazione ha negozio eBay anche, e ha parecchi voti negativi e anche altrettanti voti neutri. Ti spiego le cose più ricorrenti. Allora, non risponde alle email, non risponde mai alle email. Quindi se vuoi chiarire qualcosa non riesci a chiarirla. Spesso degli oggetti mandati non sono mai arrivati. Spesso degli oggetti mandati non corrispondevano a quello richiesto. Insomma, sta marciando male. Guarda, c'ha un sacco di voti negativi, ripeto, di voti neutri. E appunto mi avevi detto che c'era stato un patatrac, per cui sono andato il tecnico o roba del genere. E questo negozio è interessato, mi pare, a una donna, mi hai detto, ma tale Desiree. Forse non è molto pratica, però io dico, almeno alle email dovresti rispondere ai clienti, se no che negozio è? Che assistenza dà? Desiree Pavanello. Praticamente cosa è successo? Che il tecnico, per dire, io compravo un apparecchio, gli dicevo dammi un microfono adatto a questo apparecchio amplificato, lui mi diceva questo qui si adatta molto bene, allora ti faccio l'attacco per questo microfono, sì, per questo apparecchio qua, sì sì, fammi l'attacco per quello. Mi faceva l'attacco direttamente, me lo mandava già pronto tutto quanto, mi diceva tutte le cose tecniche, tutto quello che volevi sapere te lo diceva, perché aveva un laboratorio che registrava tutti gli apparecchi radioamatoriali, in più anche quelli CB. Cioè era un tecnico molto bravo. Ha perso molto da quando questo tecnico manca, capito? Adesso dice lo dobbiamo spedire al tecnico, deve segnare un altro, non lo so come siano andate le cose, però Desiree a me mi mandava addirittura lì, mi diceva guarda abbiamo fatto questa sera già, se ti interessa abbiamo ritirato questo apparecchio, questo e quest'altro, sono molto belli, puliti, non hanno un grafico, eccetera eccetera, mi mandava proprio le email. Ho capito, ma io già come vedo che l'intestata è una donna, già non mi fido tanto, non so perché. Vabbè, comunque anche a me aveva mandato una cosa simile, ma che non aveva le caratteristiche richieste, e gli avevo mandato un'email di protesta, dicendo di non spedire roba diversa da quella richiesta, e nel caso di contattarmi, non che manda quello che ha, capito? Se ha cacca ti manda cacca. Sì, ma anche quando prendeva le chiamate Desiree, a me mi mandava sempre la roba giusta, adesso hanno assunto delle persone nuove che non li comprende di nulla, mi chiede una cosa e te ne manda un'altra, capito? Gli ho chiesto la KP1000 e mi hanno mandato la KP500 che costa roba di 40 euro in meno. Cavolo, a parte il costo, poi quella apparecchio a me non interessava, interessava l'altro. Diceva abbiamo sbagliato perché la scatola è uguale, ma che non è giù, controlli cosa avevi detto, cioè l'abbiamo mandato per sbaglio, così, comunque dice spediscicelo che te lo rispediamo, e ho detto sì, ma le spedizioni che me le paga, no, no, tutto a carico nostro, non ti preoccupare, ti inviamo anche i soldi delle spese di spedizione che hai fatto tu, ma gli hanno inviati i soldi, dentro la scatola c'erano i soldi, la verità. Però sempre sono rugne, sono seccature, rifare il pacco, tutto quanto, sono sempre delle rogne. E poi l'ultima volta abbiamo perso questo alimentatore che era difettoso, gliel'ho rimandato indietro, e è andato smarrito alle poste, capito? Io per avere questo alimentatore mi sono dovuto rivolgere al vice direttore delle poste, che è un amico mio, per ritrovare questo alimentatore. Sono andato alle poste mille volte e non ne cavavano piedi, non si trovava la traccia né niente. Poi questo amico mio è riuscito a beccarlo, capito? Chissà perché lui ci è riuscito. Vabbè, quella è colpa delle poste, perché sono dei casinisti. Riprendi Claudio. Sì, sì. Ma è così. Allora, tu ti riconto, Gianni, che io ultimamente gli ho ordinato un alimentatore della Oxin da 30 ampere. perché così c'era scritto, 30 ampere, 32 il piccolo. Tanto mi sta bene perché così le collego il 950, l'avevo preso nuova e rimane da sola con un alimentatore, perché così non forse gli altri alimentatori, ne ho già 4 più quello dell'azio, invece 5 alimentatori abbastanza grossi e niente, va bene, ok. Con le CDA, peraltro contrassegno, 59 euro più 10 euro, quindi 69 euro, 70 euro, vatto, insomma, 70 euro. L'ho aperto ed era l'Oxin 25 ampere, non era il 30, quello che ho ordinato io. Gli ho telefonato e non mi hanno risposto, non rispondevano. Gli ho mandato un'email, non mi hanno risposto. Ho continuato a telefonare, ho pizzicato questo qui che dice, ma io non sono alle vendite, quindi deve chiamare quando c'è il venditore, qui e là. Ho chiamato un sacco di volte, non me l'hanno mai passato. Diciamo alla fiera, ma la cagare, anche io non ci ordino più niente. Sì, questo Claudio. Fino a comunicazioni. Ah, ecco, sempre loro. Comunque, volendo essere pignoli, c'è molta gente che prende cantonate formidabili. Allora, io ho chiamato ES Radio Hotel, che l'intestatario è tale Anzalone. Gli ho chiesto informazioni su un apparato, un baracchino multistandard, no, come quello di Gianni. Cioè, deve avere le canalizzazioni dei paesi tipo l'Inghilterra, che ha una canalizzazione strana, la Polonia, la Svezia, non volevo così per dire, no? C'era scritto sull'annuncio multistandard, io ho chiamato per la conferma, mi risponde lui, con questo vocione, cosa vuol dire multistandard? Cazzo, cosa vuol dire? L'avete scritto voi. Ma multistandard, non so che cosa, ha fatto tutto un discorso delirante che non ho capito nemmeno. Poi alla fine ha guardato sul manuale, morale, non era multistandard. Dice che loro avevano scritto multistandard perché avevano scaricato da internet. Cioè era un discorso delirante, non ho capito cosa voleva intendere questo tipo. Quindi se avessi ordinato quella cosa lì sarebbe stata diversa da come la volevo io, in poche parole. No, ecco, perché c'è gente che non è competente adesso. Salute persone, cipitumi. Quello che c'era prima era un tecnico specializzato, ti poteva dare tutte le informazioni che volevi sull'apparato, sapeva tutte le cose tecniche, eccetera, eccetera. E poi, oltretutto, se tu volevi un microfono serratale, ti metteva anche lo spinato che serratale, te lo regalavano addirittura, non ti facevano pagare nulla. Lo so, però più si va avanti più si peggiora, soprattutto quando metti gente demotivata, giovane magari inesperta, o che non sa niente demotivata, capito? Vabbè, comunque per essere pignoli anche questo che mi ha mandato questo superstar 2009, no? Io l'ho contattato e mi sono fatto confermare che fosse il Superstar 3009 della CRT francese, segui bene. Quando arriva il pacco, già era diverso l'apparato, questo era un Super Joe Pix SS3009 che praticamente è simile al Superstar della CRT, però anziché francese è spagnolo, la Joe Pix è spagnola, no? Il Superstar della CRT aveva il bip escludibile e i 10 kHz, i canali alfa, questo non ha né il bip escludibile né i 10 kHz. Quindi come ha aperto il pacco? Mi stavano girando le balle. E stavo per telefonare per spedire indietro, però visto che praticamente a parte i 10 kHz è lo stesso apparato, l'ho ottenuto, però non è corretto confermare una persona che è di una certa marca e poi mandare un'altra marca con meno funzioni. Sì, perché loro se la una cosa ti mandano l'altra pur di vendere, no, non ne frega niente, capito? Però non è giusto, perché se tu chiedi una cosa, la paghi per quella, devi avere quella, non un'altra cosa. Se lo possono solo proporre, dire, guardi, non c'ho questo apparato qua, se gli va bene gli mandiamo questo, è una cosa diversa, però fare come vogliamo, quello non va bene. Lo so, cioè bisogna essere questione di correttezza. Se tu chiedi una cosa precisa con la virgola, alla virgola proprio, ti devono mandare una cosa precisa alla virgola. Tanto più che lui mi ha mentito, perché mi ha detto che era della CRT invece della Diopis. Lui vabbè, riceve bene, trasmette bene, tutto finisce tutto lì, però non è corretto. Ma d'accordo, ma non ha le caratteristiche che volevi tu, non c'ha i 10, ma come si dice, 10 kHz, nemmeno le suddibilità del bip. Non è una cosa giusta, perché io gli avrei telefonato, gli avrei detto guardi che io non ho chiesto questo apparecchio, io gli ho chiesto un altro, che aveva altre funzioni, oltre a quelle che ha questo. Posso vedere almeno cosa ti diceva. Lo so, però qui se la gira come vuole lui, oppure fanno peggio. Certi, quando tu non sei soddisfatto, gli rispedisci indietro il pacco, loro cosa fanno? Rifiutano il pacco e la posta te lo ritorna a casa, capito? Guarda, io alla tecnocomunicazione questo non glielo posso dire, perché quando hanno sbagliato il pacco mi è arrivato prima il suo e poi ho spedito il mio, perché non mi fidavo più. Ho aspettato che arrivasse prima il suo e poi ho spedito il mio, perché a un certo punto poi alla fine perdi anche la fiducia, capito? Ho detto, cazzo, se poi non me lo mandano, almeno questo me lo tengo. E in effetti me l'ha scritto prima, dice te lo stiamo spendendo, se sei oggi, guarda, non ti preoccupare, poi ti ci spedisci l'altro, non ti mettere problemi. Tanto con te abbiamo un certo rapporto di lavoro, eccetera, eccetera, vabbè. Tanto sta che mi è arrivato prima quello loro e poi gli ho spedito il mio. Ma siamo sempre andati bene, fin quando la ditta non ha fatto questa divisione di cose, quando se n'è andato questo tecnico che l'hanno mandato via, non lo so, ma per me c'era qualche cosa, magari era il marito di Desiderio separati, non lo so, qualche cosa del genere è successo. Minchia Gianni, hai una radio devastante da quanto è forte. E addirittura mi stai facendo sordo, parla piano cacchio, parla piano come Luca che quando entra mi crepa l'altoparlante. E comunque già sono quasi tutti così, perché Magic Phone appunto questa assistenza me la sta facendo malissimo, ammesso che l'abbia spedito, perché l'altra persona ha scoperto che non l'ha mai spedito alla CTE, se l'è tenuto lui per mesi e mesi, come sta facendo con me. Lui, tutti hanno una pecca, anche CRT elettronica. Hai presente il tuo alla 48 Blues Multi, no? Quello col display giallo. Ecco, CRT elettronica aveva raffigurato sul sito il 48 Plus Multi col display giallo. A me piaceva. Ho telefonato e ho detto, mi confermate che non è, cioè che è quello col display giallo? E dice, no, non lo fanno più, noi abbiamo quello col display blu. E allora cambia immagine, cacchio, perché io quello col display blu non lo volevo, per dire, perché l'altro era quasi in SMD, questo era tutto in SMD, completamente. Vabbè, quando tu vedi una cosa e poi te la mando avanti, ti rompo le scatole, c'è poco da fare. Claudio, va. Mentre vi ascoltavo io qua, ho dato un colpo in 10 metri, stavo guardando il cratere, mi è passato questo tango xilofono 5 delta dall'Afghanistan, che non ce l'avevo, ho dato un colpettino proprio veloce, visto, ho girato l'antenna, adesso l'ho rimessa com'era. Nel frattempo, sì, ma è Marco, hai pienamente ragione, perché non è la prima volta. Ad esempio, avrebbe ordinato il Waffan Napoli, quando ho ordinato l'SM20, sempre da loro, prima mi ha detto che c'era, ne avevano due disponibili, ho detto vabbè mandamelo, un prezzo era buono da 130 euro, perché costa, c'era un'offerta, costa 160, e ho detto vabbè mandamelo. Dopo due giorni gli ho telefonato e ho detto ma l'hai spedito questo microfono, perché ho il tuo a questo venditore, se vuoi ti mando il l'Adonis, guarda l'Adonis io ce l'ho, ce ne ho due, ho il grande e il piccolo, ok, ho 508 e 908, quindi non mi interessa, voi dovrei essere 20 per 7004. Tra l'altro, siccome era nei primi ordini, cosa facevo? Le mandavo il coso, no? Le caricavo la carta, no? Compravo con quei con PostePay. E ho detto, guarda, io ti ho già mandato il coso, ti ho già fatto il pagamento, quindi mi devi mandare l'SM20. Ma mi devi dare del tempo, lo dobbiamo recuperare, ma allora chiamo la ICO, me lo faccio mandare e poi te lo mando. Vabbè, ti aspetto questa settimana, se non me lo mandi questa settimana me lo compro un'altra parte e mi storni i soldi. Beh, sai quanto ho dovuto lottare per avere quell'SM20? Non hai idea. Sono passati più di un mese e mezzo per avere l'SM20. Fortunatamente l'avevo trovato sempre da Carlo, che lui l'aveva comprato con 7.400 e me lo sono comprato a lui 120 euro nuovo dentro la scatola. Ok, quando è arrivato dopo un mese e mezzo me lo sono dovuto vendere ad Antonio, perché ne avevo due, non me ne facevo niente. Ne avevo dato ad Antonio di Monteoro, Gianni, che lui c'ha l'ICOM e quindi le serviva un SM20, capito? Per dirti le cazzate che fanno, quindi hai pienamente ragione. E da chi questo? Sempre Tecnocomunicazioni. Ecco, sì. Purtroppo è così. Oppure ordini roba e non ce l'hanno, cioè a loro figura disponibile, no? E poi la devono ordinare, come hai detto tu, e poi passano settimane e mesi anche. Sì, non so come, quando ordinava Gianni era un bel veloce, no già? In 3 giorni arrivava tutto prima. Io l'ho consigliato a tutti quanti qua, perché sono stato uno dei primi acquirenti a Sassari, l'ho consigliato a tutti perché era seria come ditta, eccetera eccetera, mi ha trattato sempre bene. E poi te l'ho detto, come c'è stato questo distacco, hanno cominciato a doppiccare. Così è. Avanti, chiamati lo Gasparriero. Chi sei, Pinuccio? Tu sei? Io ti sento, Pinu, ma tu non mi senti? Mi ascolti? Ma sei molto basso, perché io non ho l'antenna adatta. Non ho l'antenna adatta. Per sentirti bene devo girartela sopra, allora arrivi qua a Sassari, però poi non sento Sassari. Ed è un casino. Sei 5-3, 5-4, vediamo se ti ascolta Marco. Marco, lo senti Budesò? No, negativo al 100, proprio non si muove nemmeno la lancetta. Marco non ti sente, Gianni è macchina, quindi manca parlarne. Qua stai arrivando bassino, ti ripeto, per sentirti bene più non devo girare l'antenna, perché non sono con la mantola, sono con la direttiva, e quindi ti sento, ma ti sento più basso del solito, capito? Per poterti ascoltare bene devo girare a 270 gradi, dove sei, 210 gradi, allora disagameggio l'occhio, però c'ho Sassari in comunicazione, quindi non posso girare l'antenna. Già, tu lo senti da lì a Pinuccio? Sento un mormorio, ma non capisco cosa dice, la verità. Leggevi, no? No, 7001 non l'ho mai avuto come baracchino, so che non tiene un baracchino, ma no, non l'ho mai avuto, Pinuccio. No, ma te arrivando, è colpa mia, che se no qua lo sai che arrivi 8, 9, non ci sono problemi, però è colpa mia perché sto usando un altro tipo di antenna, quindi non ti accoppio bene, mica. D'accordo, Pinuccio, ti saluta Pinuccio del Moro, a Budesò, a te Gianni, che ti ha già sentito 3 volte, a te Marco. Ciao Pinuccio, un abbraccio, ci sentiamo magari al telefono, vai. Poi appena aggancio questa antenna, se riescono a mandarmi il cavo, vedi anche il cavo Marco, anche il cavo. Allora io avevo ordinato sempre la Tecnocomunicazione, 100 metri, una terza intera, DH1000, che è praticamente un cavo molto, molto buono, doppia calza, centrale, rigido, con la carta rivestita in alluminio. Proprio basso spirito, che serve nel davanti la camilla. E mi ha detto non ci sono problemi, il prezzo era buono, era 3,50 euro, mi facevano 2,70 euro. tassiamo, e però ce l'hanno già pronta, ma tassiamo e te la spediamo. Ho detto mandamela con Bartolini perché se sediamo cosa non capitare. No, ha detto vabbè, mi manda il cavo, pagato in contrassegno, ok, mi ha mandato l'H510, quello inferiore all'H1000. Mi sono, cazzo, imbestialito, ho preso il telefono, l'ho chiamato la prima volta, come sempre mi risponde, ho continuato, mi risponde lui, l'ho detto sì, è un grandissimo farabutto, mi ha detto perché mi dici lui, perché sei un farabutto, perché tu bastava a dirmi che il magazzino, l'H1000 non ce l'avevi, io avrei aspettato, perché intanto il lavoro non è pronto da fare, ok? Sto piazzando il traliceto, dobbiamo ancora assemblare l'antenna, stiamo preparando la gabbia per il rotoio, l'ha fatto Fabrizio, quindi non è così urgente, me lo dicevi, invece di fare coglionate, mi hai mandato l'H510 al prezzo dell'H1000. Ma toccato, allora ho sbagliato, no, non hai sbagliato, sì, è un farabutto, non hai sbagliato, perché te l'ho detto 3 volte, mandami l'H1000 perché il 510 ce l'ho già, e tu mi hai detto non ti preoccupare che ti mando l'H1000. Per farla breve, mi ho ottenuto il 510, l'ho usato per gli altri 2 carattere che avevo, l'H1000 l'ho comprato da Grassi, capito? Da Melchioni, l'H1000 ce l'ha Melchioni, a 20 centesimi in meno, e ce l'abbiamo a Sassari. Io la coordinata gli ho fatto di non informarmi, a me non è conto di Monteoro che Melchioni stava producendo l'H1000, capito? Tu figurati cazzo che li vendi solo, ma fottuto in pieno. E chi questo? Sempre Tecno Comunicazioni. Cazzo, allora è vizio, Claudio, non è solo un caso, è vizio. E beh, d'altronde dai voti che gli hanno dato su eBay è chiara la cosa. Lo sto dicendo, questo l'estate scorsa, quindi l'estate, questa che è passata, capito? L'estate che è passata, tant'è vero che io l'ho comprato da Melchioni e abbiamo già preparato tutto con Marco, adesso Marco è impegnato con l'estate, facendo il trasloco dell'ufficio, quindi appena terminato il trasloco, ma le carte sono pronte di H1000 per le altre 2 direttive, capito? E l'H510, che è un ottimo cavo sicuramente, l'ho usato per la calata della direttiva che sto usando adesso. Però io volevo fare 2 calate di H1000, invece ne ho 2 calate di 510, adesso ho fatto 2 calate di H1000, che è una tronzata, perché hai 2 cavi diversi con perdite diverse, capito questo problema? E mi è costato una barca di soldi, quasi 300 euro una tassa a 100 metri. Avanti già. Marco, tu che cavo hai messo alla lanterna? RG213. Ah, cazzo, io c'ho il cavo peggiore. Già, io ero costretto perché qua c'ho quasi 50 metri di calata tra il palo, la larghezza del terrazzo, poi tutti i piani che si deve fare, poi deve entrare, deve attraversare tutto il terrazzino, poi deve scendere in verticale, poi deve entrare dentro casa, quindi circa 50. No, io ho messo RG58, quello che c'ha la calca in alluminio, come sta facendo Claudio. Quello lì è, diciamo, un po' meglio dell'RG58 normale, dai. Ma io ho 20 metri di cavo, dai, non è che sia 25 metri, non è che sia tantissimo. E come fai già allora? Una perdita bassa, va bene con il G58, non hai grandi potenze, va bene così. Marco se l'ha fatto perché supera già quei metri lì. Cazzo, hai più metri di me tu, e nel cavo lo abiti. Io ne ho all'ingresso della prima radio del 704, addirittura 36 metri, neanche 40 metri di cavo, e tu ne hai 50 metri, cioè te ne rendi butta che antenna. Al centro del terrazzo, sul gabbiotto, quindi io avevo già preventivato tutto, 6 metri di palo, tutte le lunghezze avevo contato, quindi la verità non l'ho misurato il cavo rimanente, però grosso modo siamo lì. Se non sono 50 sono 45, una cosa del genere. Adesso devo fare quell'X che devo registrare un film per mamma, forse. Non so se riprendo per adesso. Ciao Marco, buon curriculum, ci sentiamo. Tanto che cosa se ne stanno a mangiare, qua già mangiato. Beh, là, vi saluto, ci sentiamo, ciao Gianni, ciao Claudio, se riesco entro dopo. Sì, tanto la nuova ci sono, anche io vorrei mangiare, dai. Se ci siete ci sentiamo dopo già. Vado a mangiare anch'io, dai. Ciao, buona carica a tutti e due. Ci sentiamo, buona serata. Tu non andi a mandegare. Io poi a mandegato. Così è. Non ho capito. Avevo ripreso poi, vabbè, quando te lo posso dire, Trabacco, l'hai capito, sì? Ha ripreso? Sì, va bene, Trabacco, 50, ripreso, Trabacco? No, negativo. Molta puttana. Vabbè. Ok, pensavo che il giro va già, perché sono una guarda, qui ti hai mangiato una bicetta. Un panino a palatore mi sono fatto, capito? Ho sentito che ce l'avete voi, ho detto mangi un panino, così mi trattengo un po' in giro, tanto cosa ci faccio a casa? Stavo guardando qualche film e io non la giocavo. Bene, non ti voglio parlare. Noi mi sono nove, ma pronto? Mangiare un boccone, già qui ci sentiamo, già sono qua sul canale 10, mi ascolto qui. Ciao Claudio, ci sentiamo, va. Io dopo.